Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ecco papà, vedi che è ancora vivo! Dai! Al secondo attacco del colle del diavolo furono colti dai primi impercettibili sintomi da fatica. Asfissia. Occhi pallati. Arresti cardiaci. Lingue felpate. Aurore boreali. Miraggi. La Coppa Cobram era ormai diventata una gara ad eliminazione. Erano rimasti solamente in due per contendersi la vittoria finale con ogni mezzo. Tra le folli surreali diozie che venivano imposte alla classe impiegatizia dai loro metafisici capi, c'era quella di praticare sport. Nelle storie di Fantozzi ogni tanto riemerge la necessità di essere all'altezza della situazione praticando sport. E naturalmente praticandolo nella più sgangherata delle maniere, quando capita il direttore fissato con il ciclismo, corrono, si decimano gli impiegati, cioè la tipica salita alla bersagliera in cui si stacca il sellino della bicicletta e l'impiegato viene impalato dal tubo reggisellino, c'è la famosa partita tennis tra le nebbie, ci sono vari episodi in cui Fantozzi ritrova l'unico suo momento di libertà nel poter guardare la partita in televisione con la frittatona di cipolle, con il rutto libero, con la birra ghiacciata. Ecco, tutto questo fa parte nel grande dileggio dell'umanità subordinata di una necessità: fare sport. Vi sentite dire da quando siete bambini bisogna fare sport, lo sport è una filosofia di vita, lo sport ti insegna a vivere, ti insegna a socializzare, lo sport fa bene perché mens sana in corpore sano, fa fare sport col tuo ragazzo, eviterai che abbia quelle brutte occhiaie, che sia sempre così scontroso, facciamo sport. Fare sport, andando avanti nei tempi, significa iscriversi a una palestra, andare a respirare il sudore e la puzza dei piedi degli altri, pomparsi il fisico all'inverosimile, se no altrimenti vivere una vita sociale tra asciugamani, accappatoi, saponi e odore sempre di qualcosa che è di stantio, perché in palestra si lascia la parte stantia di se stessi, perché è un cammino catartico, ci si purifica. Oggi una delle operazioni più richieste è l'allungamento penico, ma non in quanto sia funzionale, dal confronto in palestra, lo so dalla viva voce di un andrologo, mi dice vengono tutti da me, ce lo voglio più lungo, ma il più lungo per fare cosa? No, niente, mi basta anche se sta giù, perché in palestra devo essere quello che ce l'ha più lungo di tutti quando sto nella doccia. Questo oggi è il concetto di sport. Però si continua a fare sport. Ah, non vedo l'ora di riposarmi, vado a fare un po' di sport, giù a correre nelle città assolate, lungo le strade avvelenate, e poi l'apoteosi degli sportivi, guardare la partita. Mi si sta roventando Twitter dai messaggi delle persone che conosco che stanno organizzandosi la serata a casa di quello, di quell'altro, le signorine si metteranno il trucco con la bandiera tricolore sulle guance come se fossero delle guerriere maori, semplicemente made in Italy, perché stasera si disputa Spagna-Italia, mi sembra siano gli ottavi di finale degli europei, non ne so nulla. Questo è un altro momento di altissimo sport in cui gli italiani saranno sportivi per seguire un agone politico. Beh, oggi farò una trasmissione che mi costerà la testa, farò una trasmissione per cui sarò aspettato fuori, uscendo da questo palazzo di vetro del Sole 24 Ore milanese, sarò tacciato per mesi e mesi da blasfemo, antisociale, maniaco e depravato, ma ci sono già abituato nella vita, perché oggi farò la più grande invettiva contro lo sport che sia mai stata fatta alla radio. 800 24 00 24, a tra poco. Melog. Cronache meridiane Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative, a cominciare dalla più agghiacciante, l'annuale sfida calcistica fra Scapoli e Ammogliati. Queste tensioni si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia. Le formazioni sono sempre molto ridotte, per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti. Passi la palla! Edmondo De Amicis, lo stesso frantumatore gonadico che assatanò le nostre fanciullezze con il libro cuore, libro denso, pregnante di valori stomachevoli, stucchevoli e lacrimosi, su cui abbiamo fondato la ricostruzione del nostro paese dopo che fu strappato dalle grinfie del nemico barbaro invasore, scrisse anche un altro libercolo del 1892, si chiamava Amore e ginnastica. Era una storia d'amore tra un mancato seminarista e una signorina procace, fissata con quelle che erano le regole igieniste del tempo, e quindi folle per gli appoggi di Bauman, per le parallele, per i salti, insomma una ginnasta, perché l'Italia si ricostruiva post-risorgimentale non soltanto sui valori, sugli eroi della patria, sul sacrificio degli eroi, sul fatto dell'unità d'Italia, ma anche sulla ginnastica. Di ginnastica ne abbiamo avute comunque le memorie piene, tutto il fascismo era basato sul culto della ginnastica, sul culto di squadra, sull'efficienza fisica. Il post-fascismo e quindi l'Italia liberata, l'Italia ricostruita, ha cominciato a scoprire che esistono i campi da tennis, che esisteva lo sport popolare, non fatto in maniera coercitiva come fosse una parata militare, ma fatto perché faccia bene, perché si socializzava. A me da bambino mi costrinsero ad andare a giocare a tennis, feci un paio di partite in un campetto parrocchiale in cui tutti gli amici erano intorno a prenderci per il culo, e quindi naturalmente non riuscimmo a giocare, io e mio fratello, tutti bellini, carini, con i vestitini bianchi, e rinunciammo per sempre allo sport. Io sono un antisportivo per eccellenza, non ho mai praticato se non sport deleteri come paracadutismo sportivo, che è uno sport, una cosa da matti. Eppure feci questo, poi non feci altro. Ho un fisico scattante lo stesso, ma posso dire che in realtà gli abbonamenti alle palestre sono per me la maniera per contribuire al benessere di altre persone, perché mi iscrivo, a volte faccio l'abbonamento per un anno, ci vado tre volte e non ci vado più. Quindi nessun interlocutore meglio di me per presentare il nuovo libro di Bruno Ballardini. Bruno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ricordo che Ballardini, esperto di marketing, comunicazione strategica, è autore di un libro, Contro lo sport, uscito da proprio adesso, da pochi giorni, a favore dell'Ozzo, Baldini e Castoldi, editore. Bruno Ballardini, che ha rischiato il taglio della testa cruento, avendo scritto un libro sull'ISIS, avendo parlato per 2 anni soltanto di ISIS, oggi rischia il taglio delle gonadi da parte di tutti i suoi concittadini, connazionali, amici e nemici, perché ha fatto un vero libro contro lo sport, in cui dice che non c'è diozia più grande che l'umanità si sia inventata che l'attività sportiva. Tutto basato sul dileggio iniziale di una sorta di Dio laico, una sorta di santificazione laica, il principe di tutta l'idea dello sport, che è il barone de Coubertin, lo descrive come un fanatico maniaco, che ha coniato la frase che poi manco gli appartiene: l'importante è partecipare, non l'importante è vincere, ma che è alla base di ogni abiezione che corrode le nostre coscienze di noi forzati sportivi. Bruno Ballardini, ti ho presentato nella maniera giusta? Assolutamente sì, hai già sintetizzato tutto il libro praticamente. Io devo dire che mi sto veramente giocando la carriera e anche il taglio della testa, perché non pensavo di toccare quella che poi in realtà è una religione di massa. Ho visto delle reazioni già in giro e ho toccato qualcosa di intoccabile. Lo sport sembra una delle cose che non si possono toccare per nessun motivo, perché sono cose sacre. Sia lo sport attivo che lo sport passivo, diciamo, lo sport che inizia da quando siamo bambini, in questa sorta di corvée obbligatoria di tutte le famiglie, tra piscina, campetto, palestrina, partitina, allo sport adulto, che è il calcio a 5, che è la prima causa di rottura di menisco e di legamenti crociati della popolazione maschile italiana, allo sport collettivo, quello che vedo oggi celebrato, tutti aspettare la partita Spagna-Italia. Io poi sostengo un'altra cosa, cioè non si può impedire alla gente di fare la giusta attività fisica, però ritornando alle origini della nostra civiltà contadina, quando si lavorava nei campi, a nessuno passava per l'anticamera del cervello, tornando a casa con la schiena rotta dopo una giornata sui campi, di andare a fare bodybuilding oppure andare a fare qualunque tipo di sport. E questo valeva anche per le donne che trasportavano pesi su per le scale. Oggi si va a fare step, ma fatti le scale di casa e hai la stessa cosa, invece di pagare 100 euro al mese stupidamente. Porta il crine dell'erba sulla testa, come facevano le contadine alle mie parti, o i 2 secchi di latte in bilico con il bastone sulle spalle, e poi dimmi quanto hai voglia di fare step. Questo è uno dei fatti. L'altra questione da dibattere è lo sport è una, in origine deve essere un gioco. È diventata un'industria dove il nostro tempo libero è gestito da altri. Ora, alla fine del libro io invito a riprenderci il nostro tempo, perché il nostro tempo ci appartiene. Tra l'altro, con l'avanzamento della tecnologia, con i robot, si sta liberando via via una quantità immensa di tempo libero di cui noi non sapremo come disporre, dovremmo inventarci qualcosa. E perché siamo obbligati a faticare, sudare, farci del male? Tu elenchi tutti quelli che sono gli effetti collaterali dello sport, sono immensi. E poi vedremo quanto è vero che realmente senza sport vivremmo peggio, staremmo peggio di salute. Fermo un attimo, 800240024, sta esplodendo la reazione, lo immaginavo. Maurizio da Catania. Oh, io ringrazio. Oh, il momento della liberazione, dica. Si può dire quello che mai ha potuto dire in vita sua, lo dica. Sì, no, sono giorni che soffro nell'accendere la radio in macchina, che vado a lavorare e sentire tutti i particolari più strani su queste partite, su questi giocatori. Cioè, ma ore, spengo, riaccendo, sempre la stessa cosa. Non è possibile, è un'alienazione, un'esagerazione. Quindi la sua è un atto liberatorio verso lo sport passivo. Lo sport passivo. Invece abbiamo un momento di coming out contro lo sport attivo. Massimo da Foligno, si sente obbligato a fare sport? Sì, buongiorno. Sì. No, io assolutamente non mi sento obbligato. Anzi, volevo far riferimento a dei filmati in cui vecchi gerarchi fascisti o fascisti non in là con gli anni venivano obbligati a fare il salto nel cerchio di fuoco con risultati anche il cerchio di fuoco penosi. Ecco, adesso noi assistiamo un po' alla stessa cosa, perché tutto questo fanatismo per lo sport praticato in effetti non produce una popolazione con una forma fisica particolare, anzi tutt'altro, mi sembra di le leggo per conferma le prime reazioni delle persone che su WhatsApp, che è un sistema reattivo particolare perché fa parte dell'area dei social network, i più arditi WhatsAppano, non telefonano e non scrivono SMS. Nicoletti, finto snob anticonformista, antisport, perché in realtà è sempre stato flaccido, con una flaccidità resistente a qualsiasi attività. Poi un altro che mi dice: il solito anticonformista costretto a odiare il calcio perché sei sempre stato flaccido. Poi mi continuano a dire: sono naturalmente ironica, spendo 30 euro al mese di palestra. Beh, nemmeno tanto. Costretto a odiare il calcio, farebbe ridere se non fosse squallidamente banale. E poi quando entrano nel campo le seghe, non hai pazienza di aspettare, via dicendo. All'uno, chi non faccia sport in realtà è dedito attività onanistica. Sulla mia flaccidità lascio il dubbio dell'inventario, chi la conosca o chi non la conosca. Comunque andiamo avanti. Chiedo di chiamare tutti quelli che in qualche maniera sono stati costretti a immaginare, simulare, millantare di essere degli sportivi, quando in realtà avrebbero preferito starsene in panciolle, farsi magari una passeggiata o fare attività oziose. Alessandro da Siena. Sì, ciao, buongiorno Nicoletti. No, non sono la persona data, credo. Allora. Lei è uno sportivo, lei è uno sportivo. Perché sono giustamente uno sportivo, sì. Però ecco, io quello che ci tenevo a mettere un po' a risalto è il fatto che secondo me è la mentalità che può essere sbagliata, perché in questa società in realtà abbiamo tanto bisogno di muovere il corpo. Forse abbiamo poco bisogno che il corpo sia così disciplinato da attività come fosse, ecco, come la palestra, che può essere a mio avviso anche molto noiosa. Però io, se non avessi per esempio lo sfogo della natura, di andare a correre all'aperto e di ricrearmi dopo una giornata di lavoro, cioè, per me sarebbe veramente, insomma, molto difficoltoso. Ma fermo un attimo, sentiamo Bruno Ballardini, chiarisci il tema, perché mi danno del flaccido, giustamente. Sono d'accordo, ma quelli che parlano di flaccido, magari sono i primi che non fanno sport, sono quelli che stanno davanti al televisore sul divano. No, magari sono anche iperpompati, sono quelli che sono iperpompati stupidamente, senza capire per quale motivo, perché è una moda di massa. Cioè, queste sono vittime di mode di massa a cui non riescono nemmeno a ribellarsi, non sanno nemmeno perché fanno sport, perché l'ha detto il medico quando erano bambini. Ma agli uomini, perché il fisico palestrato piace alle donne e probabilmente piace anche agli uomini. Ma alle donne non gliene frega niente del fisico palestrato, forse alle donne stupide. Cioè, io voglio dire, sono dei luoghi comuni. Lo lascerei dire a loro se vogliono darci un contributo, ci piacerebbe sapere se poi in realtà la donna cerca l'uomo palestrato. Da uomo posso dire l'uomo non cerca la donna ipertonica, certo. Allora, mi è stato già obiettato che io scrivo un libro contro lo sport perché non faccio niente, preferisco l'ozio. Io per ozio non intendo il non fare niente, ma intendo utilizzare il nostro tempo in modo utile, quindi anche facendo attività fisiche indispensabili come per esempio le arti marziali che io stesso pratico. Per questo stavo per dirlo, come per prenderti in contropiede, tu in realtà non è uno sport ma fai un'attività fisica, sei maestro di karate antica scuola, quindi... Allora, io sono uno degli esponenti italiani del karate antico, non si può dire che io non faccia attività fisica, ed è assolutamente sbagliato pensare che l'attività fisica esista solo all'interno dello sport, e questo è il grande equivoco. Questa è una cosa che va assolutamente chiarita, perché altrimenti continueremo a delegare la gestione del nostro tempo libero all'industria che ci fa soldi sopra, allo sport e all'olimpismo in particolare. Ecco, sulla filosofia dell'olimpismo tu hai scritto moltissimo, quello veramente meriterebbe il pubblico spellamento o ricopertura di catrame e bitume per quello che hai detto sul povero De Coubertin, tutti quelli che hanno... Perché è così perverso questo principio, che tu poi hai fatto una ricerca, non è nemmeno De Coubertin, che l'importante sia partecipare e non vincere, poi non lo pensa nessuno, chiunque fa sport non pensa a questo, anche l'Umarell che va in bicicletta pensa che si deve bombare perché deve vincere l'Umarell vicino nella corsa cicloturistica estiva. Ma lo slogan dell'importante partecipare era semplicemente un invito a aderire allo sport di massa, in sostanza era funzionale all'industria che si stava creando. Il discorso è che, non l'ha detto De Coubertin, l'ha detto un vescovo anglicano all'inizio di una cerimonia d'apertura di giochi di una scuola, ma il discorso è molto più ampio, cioè De Coubertin ha inventato, come San Paolo ha inventato il cristianesimo, De Coubertin ha inventato lo sport, che prima, in modo sistematico, perché prima si divideva in educazione fisica di origine militare, lo sport olimpico, le specialità della Grecia erano sparite dalla circolazione da secoli e c'erano varie altre tradizioni sparse. Questa è stata una grande idea di marketing, ma poi l'oggetto sport è molto controverso. Io perdo un capitolo per spiegare... Fermo un attimo, Bruno, devo dare la linea alla borsa, respira un attimo. Ecco qua mi viene fuori la chiave. Uomo di marketing, Ballardini individua nella grande creazione metafisica, come fosse una religione, dello sport per tutti, lo sport fa bene, lo sport obbligatorio, lo sport socialmente indispensabile, un grande disegno di marketing occulto, e cercheremo di capire cosa ci sia dietro. A tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Entrando a quell'ora negli spogliatoi del Park Tennis, vi trovarono tre giocatori rimasti lì dalla sera prima. Buongiorno. Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda a scellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent. Eccoci. 800240024, parliamo oggi contro lo sport, che è il nuovo libello di Bruno Ballardini, che è un esperto di marketing, ma ha scritto, dopo aver scritto sull'ISIS, sul terrorismo estremo orientale, anche sul concetto del marketing dello sport, l'obbligo sociale dello sport. Lo sport è diventato un dogma intoccabile. Potremmo bestemmiare, ma non avremmo un effetto di disprezzo di massa tanto quanto abbiamo detto nei precedenti 10 minuti, che in realtà lo sport come obbligo sociale, come grande industria, come mercato, come costruzione di luoghi di reclusione in cui la gente paga va volentieri, si chiamano palestre. Ma immaginate se sia più ridicolo Fantozzi e Filini che giocano a tennis con i mutandoni e i racchettoni, o vedere sei signore e signore con delle tutine ultimo grido, naturalmente, corre su un tapirulan guardando il muro, e magari con le cuffiette, ascoltando anche la musica, e correndo contro un muro. E tante volte entro nelle palestre dove la gente corre nel tapirulan. Vedo quattro persone che corrono verso il muro, inseguono non si sa cosa verso un obiettivo che non arriva mai, che è sbattere la testa sul muro. Sentiamo qualche telefonata, sono tantissime telefonate. Nello, velocemente, da Gorizia. Oh, buongiorno. Sì. Io sono ortopedico e sono anche fisiatra. Mi congratulo con questo testo perché è il primo che riesce a far breccia in questo muro di gomma. Io tutti i giorni nel mio studio devo chiedere ai miei pazienti di smettere di fare sport e di propendere più facilmente verso l'attività fisica. E il programma di attività fisica, vi creda, non è un qualcosa di inventato, è qualcosa che la medicina codifica con dei canoni, con degli studi. Ogni piano diciamo di attività fisica ha lo scopo di abilitare ciascun paziente in base alla propria profe, alla propria personalità, verso un programma personale. Ma perché fa male secondo lei lo sport? Adesso questo... Assolutamente sì. Che danni procura? Quali sono i danni che procura? I danni? Lei pensa soltanto a un bambino in accrescimento che sollecita le cartilagini articolari del ginocchio o dell'anca o della schiena per fare danza classica. E infatti si fanno tutti il menisco verso i 15 anni. Ma chi paga quei danni, mi scusi? Ah certo, sì. Ma cos'è questa moda spietata, indiscutibile? Che vanno portati i bambini in palestra a fare agonismo. Sì, e non lo so, evidentemente fa figo. Lei da fisiatra serio dice, guardate che li distruggete le cartilagini ai vostri bambini costringendoli a fare quasi agonismo in età piccolissima. Ma evidentemente questo ha un controvalore sociale a cui nessuno rinuncia. Mary da Roma, buongiorno. Buongiorno. Io dunque sono assolutamente d'accordo con tutto quanto detto fino qui e mi vado subito a comprare il libro di Ballardini perché lo voglio vedere scritta questa cosa. Io volevo parlare della mia esperienza. Lanci il suo grido di dolore, però lei perché è d'accordo? Dunque sono d'accordo, prima perché a me non piace fare sport e io ho vissuto una cosa terribile. Ma lei è flaccida, Mary? Domanda, visto mandato del flaccido, per il fatto che lei non fa... 80 anni sono flaccida, sì, ma perché c'ho 80 anni. Vabbè, però durante la sua vita, diciamo, no, ha avuto momenti felici senza fare sport. No, no, assolutamente. No, ma volevo dire... Però scusi, Mary, lei ha detto una grande parola filosofica. Se 80 anni tanto comunque tutti diventiamo flaccidi, perché dobbiamo spaccarci anni della nostra vita a tonificarci? Ma perché? Certo. Vabbè, io ho subito una cosa terribile, questo fatto nel marketing aveva preso le mie figlie in tale modo che mi accusavano sempre di non fare niente. La mamma di Tizio va in palestra, la mamma di Caio fa jogging, la mamma di Sempronio fa i pesi, tu non fai niente, io non faccio niente. Cioè, capite come forbiano anche le mie giovani. Lei si sente che ha un socialmente una minor centralità e valore perché non fa sport. Valentina da Ferrara. Valentina. Buongiorno. Lei fa sport? Come? Fa sport? Sì, lo facevo un pochino di palestrina adesso, però l'anno della Costituzione italiana mi sono anche stufata, dico la verità. Ma lei è una donna, diciamo, di età? Sì, ho 6-8 anni. Ah beh. Cioè, sono nata l'anno della Costituzione. Cioè 68 anni sarebbe vecchia secondo lei? Eh? Cioè praticamente faceva il liceo insieme a me. Non mi butti giù. Beh, allora cosa vuole arrivare? Alla conclusione? No, volevo dire solo questo, cioè, come ho detto alla signorina prima. Sì. Che per me lo sport è migliore, perché forse ero nata l'anno del twist, sì, ecco. Del cia-cia-cia. Anch'io, mamma mia. Ecco. Un piede della e fossa. Quella è l'attività più che ti smuove di tutto e ti dà entusiasmo. Ballare. E ballare. E ho visto anni fa un signore che era lì tutto mezzo malaticcio, mezzo malandato, che con un bastoncino a una sagra di paese, che dopo si è messa a ballare come una libellula per un valzer. Lei pensa invece in Umbria, una decina di anni fa, in una sagra di paese, ho visto un vecchietto che era tutto rosso e avvinazzato e ballava strettissimo con la bellona del paese. A un certo punto gli ha preso un colpo, gli hanno buttato la lenzuola sopra, cioè anzi una tovaglietta del bar, è morto. È arrivata la moglie, poverina, piangeva, lui era lì schiattato però felice. E la donna è schiattato un vecchietto, l'ho visto io, ballare durante una festa di paese. No, è stato bellissimo. Sì, per lui è stato bello, quell'ultimo momento se l'è goduto, però gli hanno buttato la tovaglia sopra e finita la festa, andati tutti a casa. In tutto c'è sempre una via di mezzo. Silvano da Milano, buongiorno. Silvano? Ascolta, a prescindere che io faccio Shaolin Mon, il karate antico dei monaci Zen. Ah beh, noi siete tutti d'accordo. Vabbè, chiaro, sta con Ballardini. Che faccio recupero annegati nel Lago Maggiore, per cui come protezione civile. Cioè, però annegati, quanti sono già morti, va a prendere? Recupero cadavere. Qualcuno deve farlo. C'ha ragione. Ma ritorno a galla. Sono del 58, un fisico che mi invidiano da quello che dicono e non faccio palestra. Due volte che sono andato in palestra ho visto che praticamente è un luogo di incontri dove si va per cuccare, punto. Sì, quello è vero, quello è vero. Se non hai il non hai la tutina. Ci si va per conoscere, cosa... sì, è quello è vero. Ma sei scemo proprio. No, uno può anche andare in posti meno faticosi per cuccare, perché mica... Ma infatti, ma però sai, c'è questa promiscuità fisica che favorisce l'incontro. Diego da Roma, chiudiamo con Diego, poi riprendiamo con Ballardini. Diego. Eccomi, una cosa, prima di tutto fare sport, cioè io sio per divertimento e non faccio sport... estremo così, ma da ragazzo lo facevo molto di più e c'era una sorta di mania. Poi Andreotti mi ha salvato la vita. In che perché senso? Giulio Andreotti dichiarò con grandissima ironia sua solita, gli chiese: ma lei ha fatto mai sport? Aveva credo 88-90 anni e lui ha risposto: no, non ho mai fatto sport. E poi ha aggiunto: ma sono andato a tanti funerali dei miei amici che facevano sport. Ecco, da quel benissimo momento ho capito che fare sport non era più necessario nella mia vita, ma dovevo solo divertirmi. Sono situazioni estreme. Riprendiamo con Bruno Ballardini, vediamo di entrare un pochino più, di dare un po' più di contenuto su questa idea, su questo, soprattutto mi interessa capire questo parallelismo, contrapposizione, anzi, fra uomo ludens e homo spectans, perché per paradosso c'è lo sportivo che si massacra in palestra, in bicicletta, nel campetto da calcio, e l'altrettanto autoproclamato sportivo che in realtà non fa una mazza ma è sempre sportivo perché lo guarda in televisione o allo stadio. Ecco, io perdo un capitolo intero per spiegare che sulle terminologie non si mettono d'accordo nemmeno loro, nemmeno fra sportivi e fautori dell'educazione fisica, fra olimpisti e non. Perché per sportivo si intende sia quello che fa lo sport, sia quello che assiste allo spettacolo sportivo. Ora tutto questo deve finire, perché lo spettacolo sportivo, se lo volete, ha delle regole, quelle dello spettacolo. E io cito anche, ad esempio, un famoso storico dello sport, Kruger, che se ne è uscito con una tesi molto provocatoria, cioè volevate lo sport spettacolo e quindi dovete accettare anche il doping, perché senza il doping è impossibile arrivare a quelle performance disumane. Se invece vogliamo parlare di attività salutare eccetera, scegliete soltanto, e questa è la tesi finale, scegliete quelle indispensabili fuori dall'apparato sportivo, cioè camminare, correre per, magari per scappare, il nuoto per non affogare se cadete in mare e le arti marziali per difendervi, perché stanno preparandosi brutti tempi. Anche questo. Arrampicarsi qualche volta può essere divertente, diciamo. Arrampicarsi in montagna, queste cose qua, senza arrivare agli estremismi. È indispensabile, non gestito da altri, per cui privilegio ad esempio il calcio di strada piuttosto che invece del calcio CONI, perché l'apparato olimpico tende a fagocitare qualunque attività agonistica industrializzandola. Cioè, per esempio, cosa c'entra il bridge con il CONI? Cosa c'entra la dama, il gioco della dama e il twirling con gli sport? Eppure tendono a fagocitare tutto ciò che possa diventare agonistico. E questa è una cosa terribile. Diciamo la verità, poi, il fatto che lo sport comunque sia agonismo, lo sport non agonistico, la gente che si abbraccia dopo che ha fatto una partita che ha perso, io ancora devo vederla, non accade mai, ma non accade nemmeno nei giochi delle bocce dei pensionati nei centri anziani, si odiano per un tiro di boccia non condiviso nelle sue misurazioni, quindi anche questo senso catartico che lo sport sia una sorta, come dici te, di darwinismo sociale, cioè l'uomo si evolve attraverso lo sport socialmente, e anche questa è una grande costruzione fittizia. Si evolve manco per niente, infatti faccio parlare degli antropologi famosissimi in un dialogo inventato dove a un certo punto uno dice all'altro: ma guarda che siamo rimasti gli stessi selvaggi di prima. Quindi alla fine, se il calcio, l'accettazione, la istituzionalizzazione degli ultra, dei club violenti serve come anestesia sociale, serve come calmante per evitare la rivolta, io mi schiero a favore degli ultra che invece andassero a fare la guerra per strada, perché Allora loro esprimono realmente le istanze di cambiamento che invece vengono calmate, anestetizzate dallo stadio. In questo senso lo stadio è funzionale allo Stato. Diamo il traffico un istante, Bruno. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024 contro lo sport e a favore dell'ozio è il libro di Baldini e Castoldi, scritto da Bruno Ballardini, che è un esperto di marketing che getta un'ombra di sospetto rispetto a tutte le filosofie di vita legate alla salubre attività sportiva, salubre per il corpo, per la mente, per il carattere, per l'umore, per la socialità. Ballardini, pezzo dopo pezzo, sfonda quella che è la più potente religione collettiva condivisa comunque da chiunque, al di là delle convinzioni politiche, religiose, gli stili di vita. Quello che noto è che chiamano poche donne, non chiamano donne in età da sport, hanno chiamato due signore anziane che sport, ammesso che l'hanno fatto decenni fa. Evidentemente nelle donne, nel pubblico femminile, è ancora più indissolubile questa realtà che occorra fare sport. Sono stressata, ho lavorato, esco dall'ufficio, devo prendere la borsa ed occorre a fare sport, che poi mi sento meglio. In realtà non fa altro che gettare sale sulle sue piaghe fisiche e mentali. Mi scrive un ascoltatore, dice: la categoria dell'ipersportivo si vanta dei suoi infortuni come se fossero medaglie al valore guadagnate in battaglia e tiene banco con falsa modestia raccontandoli. Ecco, mi spieghi, Bruno Ballardini, un concetto che a me è piaciuto molto. Lo sport ha in sé una chiave perversa, è la chiave su cui sono articolati le peggiori teorie di contenzione della emotività degli esseri umani, il senso del sacrificio. Perché bisogna sacrificarsi e soffrire per fare sport? Ma questo è un portato della cultura cattolica, cioè alla fine, dopo tanto sacrificio, c'è un premio, c'è una ricompensa. E questo non è vero affatto, perché uno può anche sbattersi tutta la vita a fare attività fisica e rimane un imbecille come prima, come era all'inizio. Questa purtroppo è la dura realtà. È molto piacevole l'illusione che coltiva durante, nel frattempo. Riprendo il fatto che poche donne abbiano chiamato. Lo sport, in particolare il fitness, viene ormai visto come un fatto cosmetico, un mezzo, uno strumento per migliorare, per aumentare la propria bellezza oppure perlomeno per ristrutturarsi, quasi un sostituto della chirurgia estetica, che è un pochino più invasiva e un po' più traumatica. Senti una cosa, scusa, ti interrompo soltanto, che ha scritto un ascoltatore una frase che mi dà senso di quanto tu abbia maneggiato l'anatema parlando di questo libro e sottolineando questi aspetti, diciamo, emblematici dello sport su cui riflettere. Cosa dice sto rimbambito? Lo sport è un'attività organizzata, che sia pulito o sporcato dal doping dipende solo dall'etica di chi lo pratica. Io non mi sono mai inteso di sport, ho avuto mai competenze di sport, ma chi chiede che il tuo libro sia bruciato dovrebbe riflettere sul fatto. Ma mi dite qual è l'aspetto pulito dello sport? Dove sta? Nelle partite di calcio? Nei campionati del mondo? In cosa sta? Qual è il punto pulito dello sport? Bruno? Allora, io vorrei ricordare all'ascoltatore che Pantani, prima di morire, gettò lui un anatema sul mondo del doping, dicendo in sostanza che tutti si dopano. Ci siamo dentro tutti. Ci siamo dentro tutti. E se poi invece vogliamo parlare dei valori morali, etici che lo sport ci vorrebbe contrabbandare, anche questi sono falsi, c'è un'ipocrisia di fondo, perché se lo sport ha un valore educativo e deve dare l'esempio, io credo che una singola azione di Blatter, di gente corrotta come Blatter e altri grandi su cui sono state fatte delle indagini, siamo arrivati a conoscere la verità sul loro operato. La corruzione a tutti i livelli non è certamente un buon esempio e sortisce lo stesso effetto dei preti pedofili nella Chiesa Cattolica. Cioè che uno prende le distanze, sono solo quelli, sono le mele marce, in realtà il sistema è sano e sono soltanto le mele marce. Questa è la convinzione generale. Ripeto, non hanno chiamato e non chiamano donne, strano. Alessandro da Sassari. Sì, buongiorno. Io volevo solo premettere che non condivido le tesi del libro, ma io ieri ero a Mosca, nella casa dove abitava Tolstoi, che oltre a essere, diciamo, forse il più grande genio del suo tempo, faceva molto lavoro manuale, faceva lavori di falegnameria, costruiva le scarpe, sì. E ogni giorno utilizzava i manubri e faceva per parecchio tempo un'attività fisica puramente... Ma fermo un attimo, Alessandro, Bruno, specifica te. Tolstoj usava dei manubri, mi scrive un ascoltatore, io faccio sport solo a casa come i carcerati. Questo non significa fare sport, fare attività fisica tranquillamente, è non entrare nel meccanismo organizzato e psicologicamente vessatorio. Ma va benissimo, io ho appena detto che non è l'attività fisica. Riappropriarci noi delle attività, fare quello che vogliamo e soprattutto non stare al gioco del grande gioco. Io definisco lo sport e l'olimpismo il grande gioco, una macchina che pretende di imporre delle regole. Le regole le dobbiamo inventare noi, come si faceva da bambini, ricreando continuamente il modo di giocare, che anche questo faceva parte del gioco. Questa è la cosa. Se amate la box, se vi piace la box, non andate a guardare, non diventate spettatori, andate a fare a cazzotti, andate per strada. Cioè, la stessa cosa con il calcio, tirate due pallonate su un prato per conto vostro. Andate a fare cazzotti per strada, Bruno, mi costerà la radiazione, cazzotti per strada. Se siete d'accordo con amici, mettetevi come il Fighting Club, mettetevi in un angolino e fatevi a pugni, ma non andate a prendere la gente a pugni per strada. Fate fra di voi, se volete divertirvi, fate a botte come si diceva una volta, se no è istigazione a delinquere. Anna da Roma, veloce. Sì, salve, felicissima di sentire tutte queste cose perché io non ho mai fatto sport. È flaccida? Ma credo di no. Vedi, si può anche non essere flaccida. Ma al di là di questo, volevo chiamare per il bambino, il buon sangue non mente, lui odia proprio lo sport e quando si è cercato di imporglielo si è ribellato curiosamente, ma anche le stesse maestre in qualche modo, tra virgolette, sottolineano sempre questa cosa dello sport, dello sport. Lui ha fatto centro estivo al museo di zoologia, piccola pubblicità, il museo di zoologia, divertito tantissimo, giochi di squadra, ovviamente è l'unico sport che lo attrae adesso, sono le arti marziali, ma perché lo rimandano alle filosofie orientali, a tutto quello che... Vabbè, abbiamo ama. Capito, esistono ancora delle sacche sane nell'umanità che non sono state contaminate dalla moda oppressiva dover fare sport a tutti i costi. Io esco e non so quello che mi aspetta, anzi lo so, a tra poco, no.